13 no, il Popolo della Libertà che non ha partecipato al voto, non c'è stato il voto segreto, e l'ex tesoriere della Margherita Lusi si trova in carcere a Rebibbia. L'accusa di aver sottratto oltre 20, 22, 25 milioni di euro dal finanziamento ai partiti per la Margherita, partito che tra l'altro non c'è più. Ne parliamo con il senatore Marco Follini del Partito Democratico, che saluto. Buongiorno Follini. Buongiorno. Lei tra l'altro è presidente della giunta delle elezioni e dell'immunità parlamentari, quella giunta che si era espressa per il voto confermato poi dall'Aula. Saluto anche il senatore Giuseppe Saro del Popolo della Libertà. Senatore, buongiorno. È qua Saro? Sì, adesso lo recuperiamo. Senatore Follini, intanto non è stato, come titola qualcuno, il... per esempio il manifesto, il Lusi espiatorio finisce in carcere, cioè colpire lui per colpire tutti? Ma noi dobbiamo, secondo me, distinguere il voto su Lusi. Dal mio punto di vista era un voto obbligato, noi siamo interpellati da un magistrato che chiede l'autorizzazione all'arresto e dobbiamo decidere sì o no, non possiamo scantonare, non possiamo sfuggire a questa domanda. Dopodiché una classe politica degna del nome trova la forza e le risorse morali per cambiare tutto quello che c'è da cambiare sulle regole, le regole di finanziamento della politica, le regole di rappresentanza dell'elettorato. Se Lusi sia un capro espiatorio o no, lo dimostrerà il seguito di questa discussione tutta politica, che verte appunto su come ripensare il finanziamento della politica e su come cambiare la legge elettorale. Il dato di fatto però è che questo voto palese non ha precedenti nella storia repubblicana, cioè come titola oggi Corriere della Sera, era successo con l'onorevole Papa alla Camera, ma che il Senato dica l'arresto, abbiamo visto anche di recente il caso De Gregorio, altra vicenda, si era chiesto il voto segreto ed è stato salvato, diciamo così. Ma io credo che il voto di ieri abbia una sua chiarezza. In giunta, che è il luogo, diciamo, più informato delle cose, si vota a scrutinio palese, dietro le decisioni e i comportamenti di ciascuno di noi c'è la massima trasparenza. Non vedo perché l'Aula dovesse rifugiarsi dietro il voto segreto. In giunta Saro ed io abbiamo votato diversamente ed è una posizione che ci siamo sempre assunti, noi e tutti gli altri membri della giunta, e non è che questo abbia leso in alcun modo la nostra libertà di coscienza. Sì. Anzi. Le chiedo anche questo prima di passare al senatore Saro: non c'è stato il timore dei tanto evocati forconi alle porte che ha spinto anche a dire no questa volta? Cioè, a me è molto colpito che Crosetto abbia detto o prendiamo a calci Lusi o veniamo presi a calci noi. Ma intanto non credo che il voto di ieri sia un prendere a calci Lusi, semmai un prenderci una responsabilità, che è anche una responsabilità che può essere imbarazzante, dolorosa, ma, insisto, inevitabile. Detto questo, io credo che politicamente noi abbiamo fatto la cosa giusta e per quanto mi riguarda il clima di opinione pubblica non penso mi abbia condizionato. È sempre odioso citare se stessi, ma ricordo che nella relazione che ho presentato in aula ho stigmatizzato proprio questa espressione, ho detto qualcuno ha evocato i forconi come se dovessero guidare la nostra decisione, è un'affermazione che non apprezzo e non condivido. Senatore Saro, il Popolo della Libertà, lei è uscito dall'aula, no? Non era presente al voto? Però in giunta avevo proposto di non Concedere l'arresto. Cos'è? Ha scelto, diciamo, di fare quello che il volere del partito era, cioè quello di uscire. Però fosse rimasto dentro avrebbe votato no, immagino. Sì, avrei votato no, ma ieri abbiamo avuto una lunghissima discussione nel gruppo tra coloro che sostenevano il voto segreto, io ero uno di questi, avevo già firmato la richiesta, c'erano già le firme, e coloro che invece sostenevano il voto palese. Perché lei voleva il voto segreto, per esempio? Perché io credo che bisogna consentire ad ognuno di poter esprimersi con una libera coscienza senza obbedire agli ordini di partito. E soprattutto su una questione così delicata che è la libertà personale di un individuo. perché altrimenti quando si va al voto palese nessuno oggi, ieri nel PD, salvo qualcuno che è rimasto forse a casa, ha avuto coraggio di votare contro l'arresto, sì. Perché se uno votava contro l'arresto probabilmente la prossima volta l'elezione non sarebbe messa in lista. Accidenti, però lei mi sta dicendo, senatore, che uno non è libero di votare se lo fa in modo palese? Cioè, deve... Io sono convinto di questo. Io sono sempre stato convinto di questo. Prevale alla fine l'interesse di seguire la linea del partito, perché il partito ha una capacità di conculcare l'autonomia delle persone fortissima, perché poi con questi partiti molto centralizzati in cui decidono in pochi, se uno si comporta in modo diverso rispetto agli ordini di partito non si trova la prossima volta in lista. Quindi lei dica la verità, aveva la tentazione proprio di magari di star dentro, votare no? Io mi sono già esposto, ho già detto quello che è il mio pensiero, lo sanno tutti in ogni sede, quindi solo che essendo stato fatto, io alla fine sono stato uno di coloro che hanno portato al compromesso che c'è stato di non partecipare a questo punto alla seduta, soprattutto perché c'era questo tentativo di poi scaricare su di noi evidentemente la eventuale non approvazione della richiesta di concedere gli arresti di Lusi, sì. Anche perché poi era giusto che, trattandosi di una vicenda anche che coinvolge molto il PD, emergessero anche le responsabilità politiche collettive attorno, parlo soprattutto dell'ex Margherita, sì, sì, certo. Emergessero fino in fondo le responsabilità collettive. Io in giunta, adesso, anche se i lavori sono riservati ai segreti, avevo detto che questa è una vicenda certamente che ha risvolti penali, delicati, e saranno i giudici del dibattimento processuale ad accertarli. Però ciò che io veramente non accettavo in questa vicenda è che si facesse di Lusi un capro espiatorio e tutti gli altri santi e puri. Che è stato un po' così, lei dice, un po'... Però credo che ormai, lo diceva anche Follini, si aprirà evidentemente, non so cosa faranno i magistrati, come proseguirà l'istruttoria. Vabbè, Lusi quello che ha detto è che ha voglia ancora di parlare, se i magistrati hanno voglia di ascoltarlo. Fatemi dare le informazioni sul traffico, voglio ripartire poi da quello che ieri il senatore Follini ha letto in aula, ha fatto una comparazione tra i soldi presumibilmente sottratti da Lusi e gli stipendi degli italiani. Allora, il voto che ha portato in carcere l'ex tesoriere della Margherita Lusi. Senatore Follini, lei nell'intervento in aula ha fatto un paragone, ha parlato 22 milioni di euro, cioè i soldi presumibilmente sottratti da Lusi, per un operaio della Fiat di Pomigliano d'Arco sono l'equivalente di 1033 anni di stipendio, 11 mesi e 7 giorni. Per un insegnante di scuola elementare con un'anzianità di 5 anni equivalgono a 1238 anni di stipendio, 9 mesi e 21 giorni. Perché ha voluto diciamo, avvicinare e far capire in maniera tangibile cosa vuol dire per un cittadino qualunque quello che è, di cui è accusato Lusi? Follini, eccoci qua. Non ci sente? Non ripristiniamo la linea. Oggi con i telefoni siamo un po'. Senatore Saro, torno allora da lei. Le piace questa idea di voler... il concetto è... vi accusano di essere scollati dalla realtà, quello che succede all'interno del palazzo, anche l'idea di difendere una persona come se sia diversa dagli altri, no? Una persona qualsiasi accusata di questo sarebbe finita già in carcere, non si vede perché un senatore non debba subire la stessa sorte. Molti di noi non credo siano scollati dalla realtà, nel senso che viviamo sul territorio, quindi abbiamo la consapevolezza della gravità della situazione e di ciò che pensa l'opinione pubblica. Il problema comunque in ogni caso è anche che dobbiamo cercare anche di difendere un minimo le prerogative parlamentari, perché se solo andassimo dietro alla voglia giustizialista o populista dell'opinione pubblica saremmo di fronte a una giustizia sommaria che spazza via tutto e tutti. Ma perché? Cioè, mi scusi, ma quali prerogative parlamentari, per carità? Guardi, vede, le prerogative parlamentari... Cioè che fanno di un parlamentare una persona diversa rispetto a un cittadino comune? Perché si è mai chiesto perché in tutte le costituzioni del mondo occidentale, adesso anche ormai del mondo orientale, si è prevista l'immunità per i parlamentari, fino a loro di consentirgli una, come si dice, più libera espressione e per non essere ricattati e condizionati da accuse che talvolta si rivelano. Ma sì, ma questo nacque nella Repubblica, giustamente, si usciva dalla guerra, si usciva dal fascismo. Ma... Questo, le ripeto, non esiste solo in Italia. Se lei vede come è articolata l'immunità al Parlamento europeo, è molto più forte di quella che è presente nel Parlamento italiano. E quindi, obiettivamente, io non sono per favorire per niente insomma, i senatori o i deputati rispetto ai cittadini. Io sono perché però tutte le cose vengano affrontate in un giusto dibattimento processuale. Ma mi scusi, anche la questione della carcerazione preventiva, che è un tema sicuramente grave. Ieri avevamo la senatrice Emma Bonino, che anche lei ha votato per l'arresto, nonostante lì che i radicali si battono sempre contro la carcerazione preventiva definita un cancro dell'Italia. Però questo discorso vale solo e viene tirato fuori quando si tratta di giudicare di senatori o deputati. Cioè non vedo delle grandissime battaglie contro la carcerazione preventiva quando si tratta di mettere in carcere delle persone comuni. Questa è, la Bonino ha ragione, perché questa è una vergogna del tutto italiana, perché se in Italia funzionasse una vera giustizia non ci sarebbe così tanta carcerazione preventiva, si farebbero i processi, lì si decide se condannare uno o non condannarlo e quindi mandarlo in carcere. Invece in Italia si espia la pena, talvolta in modo ingiusto, perché poi si viene magari assolti tramite questo benedetto istituto della carcerazione preventiva, ed è obiettivamente uno dei limiti del Parlamento, dei parlamenti che sono susseguiti in questi anni, non aver affrontato questo problema. Mi lasci sentire un attimo Aldo da Milano, che ci ha chiamato l'800240024. Aldo, buongiorno. Buongiorno a lei, Milan. Senta, molto rapidamente, io sto pensando male, molto semplicemente. Ritengo che Lusi sia stato arrestato e quindi gli abbiamo tolto l'immunità per il semplice motivo che abbia rubato ai ladroni, cioè abbia rubato la carta. Se lei ci fa caso, tutti quelli che invece sono stati coinvolti in fatti simili, però con quando ha pagato Pantalone, cioè parliamo dello Stato, hanno rubato, sì, hanno sottratto allo Stato, l'hanno fatta franca. Ma perché lei dice? Perché lei dice? Perché lei dice in questo caso, avendo rubato? A parte che avrebbe rubato a noi, perché sono finanziamenti sì, certo, erano soldi del partito, ma soldi nostri. Poi hanno rubato comunque dal portafoglio del partito della Margherita. E quindi per questo secondo lei, Aldo, è stato punito? Un trasversale. Adesso vedrà che il buon Lusi vuoterà il sacco, perché certamente non la farà passare liscia, perché lì sono evidenti connivenze, ma sono evidenti. Cioè, sono queste... Lusi da più tempo, sta dicendo non potevo, eseguivo gli ordini, non era solo colpa mia. Evidenti. Sicuramente verrà fuori ancora dall'altro a darvi a sacco, perché lui ha avvertito, qualcun altro non l'ha capito il messaggio, oppure ha voluto fare del giustizialismo. Cioè, per me la carcerazione preventiva è uno dei tanti abomini che abbiamo in Italia. L'uso poteva essere messo agli arresti domiciliari e controllato e opportunamente, perché il carcere è una cosa stupida in questo caso. Vabbè, però poi magari gli arresti domiciliari. Comunque lei dice questa teoria: ha rubato alla casta e quindi per questo è stato punito. Non lo so, io ringrazio il senatore Giuseppe Saro del Popolo della Libertà, il senatore Follini che ci ha lasciato qualche minuto prima e non l'abbiamo più raggiunto. Trovateci su Facebook 24 Mattino e noi ci ritroviamo domani alle 7:20. 24 Mattino.